voce. Patrizia Zappamulas legge Artemisia di Anna Banti. Nona puntata. Piange anche oggi Artemisia, ritornata dopo tanti mesi con quella sua presenza pungente e istantanea a rubarmi la voce. Oh Antonio, il mio marito, così gentile nel sonno, non nutrivi un pensiero di malizia. Sospiravi quando mutavi fianco, se incontravi i miei capelli sul cuscino, li ricomponevi come un mazzo di fiori. Mi andò a prendere l'acqua fresca al pozzo quella notte che avevo la febbre. Quando si soffiava il naso pareva che si vergognasse. Gli piacevano i mughetti. Teneva il bicchiere con due dita. Strascicava un po' i piedi camminando. Lo riconoscevo dalla tosse. Oh, il mio marito, che così presto è morto. Riconosco il modo tenero e violento con cui Artemisia interviene per forzare la mia interpretazione, la mia memoria. Quel suo oscuro marito, quel suo patetico, legittimo amore, vuol piuttosto averlo sepolto che perduto. Ma debbo dire che morto Antonio non fu mai per Artemisia. Sebbene non lo vedesse più e solo a intervalli lunghi le giungesse voce che viveva e qualcuno l'aveva incontrato, la lasciò gemere a sua voglia l'ultima volta che la vide, il capo sulla tavola imbandita, ricondotta a quel momento che presentì l'abbandono senza crederci. E a poco le lacrime le si seccarono sul ciglio, desolatamente inutili. Si sollevò Artemisia e accennò quei gesti semplici e meccanici di soffiarsi il naso, asciugarsi gli occhi, guardarsi intorno, torbidamente vuotata di speranza e di affanno. Magari sbadigliò dallo stento, toccò il pane, ne portò alla bocca qualche briciola, la punse l'odore del cibo rimasto sul piatto, o arrosto di quel giovedì o sabato, o insalata cresciuta da Taddeo, ortolano dei cicciaporci alle fratte di Sant'Andrea. Mastica Artemisia e il petto ancora le sussulta. Soffre di voglie perché è incinta. E Antonio neppure lo sapeva. Gran fatica durò Francesco a persuaderla che la proposta di trasferirsi a Napoli è vantaggiosa, è onorevole, che da Napoli a Madrid e alla corte di Spagna è breve il passo e tu vedrai, la incalzava da ultimo, tu vedrai se quello strambo, quando sentirà la nuova, non ti ritorna a casa. Artemisia faceva di no col capo, intendendo rimanere disperata e chiudersi ancora una volta in monastero. Prima, diceva, farebbe direbbe contro gli stiattesi, i traditori che le avevano sobillato il marito, cose di fuoco. Ma le sue ripulse erano sempre più fiacche. Una gran pace stava discendendo in lei, essa ingrassava. Non le doleva più il capo, non soffriva più di febbri repentine e per verità non riusciva più a inquietarsi né del marito, mai ricomparso, né delle chiacchiere di Roma sul suo conto. Imbelliva prodigiosamente e dipingeva a stracca il ritratto da turco di un signor Armidoro, ricco mercante genovese, e un Mosè salvato dalle acque con sette femmine in varie positure, e per tutte teneva a modello la nipote del curato di San Rocco con bei capelli neri. Si faceva servire dal fratello con una prepotenza pesante e quieta, sicché il poveretto non poteva più tornare a bottega in strada Pia neppure a dormire. I cavalieri che avevano preso a frequentarla con l'occasione di vedere quel che operava restavano interdetti e irritati che questa donna ha un tratto tanto insolente e se bella non fosse si scorderebbero che è virtuosa di tal grido. Il fratello le dovette preparare le casse e fino le provviste di bocca per il viaggio. Lei non si muoveva di casa. Più le circostanze premevano, più si dava agio. Da ultimo faceva un gran dormire, rimandando i visitatori senza distinzione di rango. Ma tre giorni innanzi la partenza ritornò, malgrado i fianchi rotondi, l'altiera impaziente ragazza che sola è arrivata a Roma e sola vuol partirne, perché di nessuno ha bisogno, di nessuno, Dice ferma, con quel sereno viso, folgorando il povero Francesco affettuoso, e sola partì. A questa bella donna indifferente obbediscono le cose e le persone a tal segno che mai la Corriera di Napoli fece un miglior viaggio, senza un'ombra di paura nemmeno fra i boschi. I cavalli tutti gagliardi e giudiziosi, garbati i postiglioni, la stagione dolce. Le osterie, di così cattivo nome, si trovarono passabili, bastarono i letti a ogni fermata. I passeggeri non facevano che dire che questo viaggiare era un paradiso, guardando molto spesso, ma con rispetto, il bel viso della signora, vestita così civilmente, che mai si muoveva dal suo posto d'angolo imbottito di cuscini. Tutti erano allegri all'arrivo e Artemisia non ebbe un minuto di incertezza nel riconoscere padre Ilario, che non aveva mai veduto, religioso tutto zelo per sovvenirla di quanto le occorresse. Aveva sotto mano un quartierino nella foresteria delle Clarisse, alloggio nobile e pulito, stanze grandi, terrazza e giardino. Lo lasciava una dama vedova che s'era riaccasata, costava poco, sorrideva. E sorrideva Artemisia con quella bella faccia di bionda florida, servita a meraviglia dalla nuova lentezza dei suoi gesti che tanto concordava col genio della nazione. Le monache, come arrivasse loro una marchesa, spiavano dalle grate l'ingresso dell'ospite e del padre confessore e le mandarono subito brodo ristretto, confetture e marzapane. Placida e sicura, Artemisia filò in camera e aprì le cortine del letto come se ci dormisse da anni. «Mi bisogna», dichiarò al padre, «una donzella onesta e uno staffiere». Con un ultimo sorriso chiuse la porta. Era installata, protetta da mura. Nella quiete dell'animo saliva, vittoriosa e dolce, una sicurezza di potenza indicibile, libera dal passato, paga del presente. Così suo figlio era sicuro nel suo grembo. La solitudine ricominciava, ma senza rigidezza, con una facilità ricca e scorrevole in questo paese sontuoso e formicolante, con mare, palazzi, frastuono immenso, cocchi e gualdrappe sempre in volta, gran fetori, politezze estreme. E la donzella fu Terenzia, che donzella non era, ma vedova di pescatore, donna pratica. Da staffiere si prestò Pasqualino, un facchino del mercato che sapeva cantare e raccontar favole. In casa stava poco, che era sempre sull'uscio e lì puliva i rami e macinava i colori o si dondolava sulla sedia come se cullasse un infante. Lo cullò, infatti, a suo tempo. Ma dovevano passare i giorni lunghi in cui non succedeva nulla, salvo che al tramonto, quando Artemisia si lavava le mani sporche di colore, Terenzia faceva salire qualche donnetta esperta di gravidanze con la scusa delle ova fresche o del ciuffetto d'erba matricaria e lì gran discorrere di quel che occorresse perché un parto andasse a meraviglia, per quelle chiacchiere umili e senza malizia. La pittrice si riconciliava con le donne minute, l'immagine di Tuzia non le dava più disgusto e quelle di Cecilia e di Arcangela, paragoni di intattezza e puro ardore, non l'assillavano di rimpianti. Le indiscrezioni erano quasi una carezza. Così giovane, diceva una, così giovane senza marito. E un'altra all'orecchio di Terenzia, povera figlia, chissà com'è capitata. A questo modo lo stato di vedova le ricadde addosso senza essere invocato e lei né lo accettava né lo rifiutava, benigna e silenziosa, conquistata una fraternità che procedeva per simboli, il decotto rinfrescante, il balsamo, il cibo che sostiene, conforti che la condizione femminile ha maturato nei secoli. In virtù di questi fuggevoli contatti col mondo, la tranquilla reclusa volontaria vede l'umanità sempre più divisa in due parti, troppo diverse, sicché ragione e istinto la convincono che è venuto il momento di rassegnarsi e decidersi di appartenere a una sola, soffocando il bruciore di quel «se non fossi una donna, inutile lamento». Meglio stringersi al popolo sacrificato e prigioniero, partecipare al suo destino sordo e miracoloso, dividerne le sensazioni, i calcoli, le verità, segreti preclusi ai favoriti, agli uomini. Qui si ascolta Nunziatina in groppa, Una forese che sa quel che dice. Quando ti senti quelle fitte basse, ti metti a camminare come un mulo e in 3 ore la creatura nasce. E Marchetta, madre di gemelli, consiglia che tutto sia ben netto in camera, acqua pura in quantità, spreco di biancheria di bucato e senza reliquie intorno, che essa ne ha vedute morire di principesse fra i velluti e sempre le cameriste smorfiose che temevano l'acqua bollente alle mani più che il diavolo. Cominciarono le donne a farsi un po' più ardite, ad affacciarsi in sala mentre Artemisia dipingeva, e non le davano fastidio, badandole dopo la prima curiosità meno che stesse al telaio. Solo Celestina, una ragazzetta di nulla, gira gira, trovava sempre il verso di mettersi alle spalle della pittrice e lì restava a guardare. Le parve di riconoscere il suo viso in quello di Santa Teresa, ma non lo disse, anzi diventò rossa e si coprì le guance con le palme, le ronzavano gli orecchi. Fabia, ricamatrice in oro, diceva in quel punto: «Vi porto un brodo che dopo la seconda vi potete levare di letto». Ma le più volte, al calar del sole, Artemisia se ne sta in altana a pigliare il fresco senza che nessuno la veda. Guarda il mare cresputo e irrequieto, i vascelli che giostrano, grifagni come mostri, gonfi di vento, ispidi di alberature e di corde. Comincia a distinguere i galeoni di Spagna, i bertoni inglesi, le galere di Francia, le feluche di Genova. Si diverte a seguire le faccende degli uomini piccoli sulle scalette fra le vele flaccide o il carico delle barche che portano a terra le mercanzie. Poi, sollevando gli occhi, assiste come in chiesa al contrasto dei raggi e delle nuvole, della luce e dell'ombra. Agile e portentoso, ecco da oriente l'uragano e l'acqua diventa verde, l'acqua diventa nera. Terenzia si fa il segno della croce e Artemisia pensa che questi accidenti naturali li osservano i pittori di Bologna ed Oltremonte, che fanno gran conto del paese, ma per i fondi possono servire a ognuno. Quando avrà partorito si vedrà cosa sa fare la Gentileschi. Intanto può bene, senza impegno, trastullarsi in fantasie sul color del mare e del cielo, come se dipingere non fosse il fatto suo. Stende la mano alla caraffa dell'acqua cedrata, che qui l'accomoda una meraviglia, e gravemente rosica i canditi delle monache, con le voglie non si scherza. Gli scudi di Francesco paiono 10 volte tanti, così poco vale la vita a Napoli. E poi tutti fanno credito alla bella romana che sta per partorire. Nessuno le chiede denaro, neanche la mammana, che la visita e le dice con familiarità di Sibilla: «Non finisce la luna e sei sgravata». «Muoio», diceva Artemisia, piegata in due prima di entrare a letto, e aveva i lati Terenza e Fabia, niente affatto commosse, ma serie e silenziose. Di fuori, al cielo chiaro della sera, Pasqualino Staffiere cantava. Diceva «muoio» perché le pareva suo dovere dirlo, ma si sentiva nel dolore gagliarda e contenta, e le veniva in mente la gatta bianca e nera della casa di San Spirito che faceva le fusa mentre partoriva. Badava a stare bene in cervello e a vigilare su quel che succedeva, così sola com'era, in mano d'estranei, ma pareva che i pensieri tristi fossero ben fasciati di nuvole, soffici e gonfie. Nuvole d'estate brontolone, ma senza cattiveria, che andavano e venivano, entrando e uscendo da lei. Era un sentirsi protagonista, ma umilmente, alle prese con un male leggendario che veniva di lontano, anche se le nasceva dentro. I suoi gesti erano comandati, bruschi e grossamente obbedienti, e gliene veniva a vampe una vergogna come fosse scoperta in peccato e alla berlina. «Muoio», ripeté da ultimo, ricordandosi a un tratto che poteva davvero morire e accollandosi in fretta tutti i sentimenti di un moribondo. Non seguiva più il tempo e stava già in pace, mentre le sibille si moltiplicavano in faccende, tutte mani e panni fruscianti, e un rantolo di animale infelicissimo, lontano, lontano, la rimproverava. Allora ebbe paura e, sentendosi ancor viva, si sollevò sulle reni per guardare. Prima che le donne la rinchiodassero di forza sui cuscini, vide un oggettino nero, tutto un viluppo, vivo soltanto nella smorfia del pianto, a volte afono, a volte squillante come una tromba, ma efficacissimo nell'esprimere quel che si soffre, lei lo sapeva bene, quando non ci si può sfogare. E se lo ritrovò accanto, duro duro, nelle fasce strette, scoperti solo occhi e bocca, chiusi gli uni e l'altra, e lacrime grosse da adulto. Con le braccia intormentite lo strinse al petto. Spandeva un odore leggero, umile, di cui le pareva di rammentarsi. Un ricordo d'infanzia, un ricordo di sonno. E anche di questo si vergognò, come un suo segreto carnale fosse divulgato. Per nascondersi serrò le palpebre e diceva fra sé, ma quasi senza pensarlo, «Come facciamo adesso? Come facciamo?» Si accorse di aver inteso l'esclamazione di Terenzia un secolo fa, che Dio la faccia santa, una bella guagliona. Porziella, Porziella, nome amabile e tenebrato, troppo facile al labbro, troppo pesante al cuore, un fiore e un pozzo infido per una madre che, così giovane, toccava col piede la culla come se danzasse e poi diceva «Terè, la pupa dorme, ricordati del latte, non farla strillare che ho conversazione». E, scesi quei quattro gradini, già le venivano incontro i meglio pittori di Napoli a complimentarsi e il modello stava già in posa e l'innamorato garzone, spasso dell'assemblea, già le porgeva la tavolozza pronta con un sospiro alla spagnola. Laggiù, nel fondo della sala, i gruppi dei visitatori, amici e amici degli amici, nereggiano scintillando dalle impugnature, dalle collane d'oro, e non c'è volta che Artemisia, schiumandone con gli occhi le espressioni più risentite, quei baffi là, quella barba arrogante, quell'oltraggiosa pesantezza di riso e certa trasparente allusione a un contegno di amante alla moda, cascante o impettito, non si fermi per una sorta di repulsione istantanea, di istantaneo accasciamento. Ma non è più il tempo che essa fuggiva agli uomini, in via larga o a palazzo. Lei è ora maestra Artemisia, che insegna ai giovani pittori e non ha paura di riprenderli, se occorre, con un buffetto sulla guancia. Bisogna procedere, fendere quella calca senza guardarsi alle spalle, spronando a tutto potere superbia, vanità e una spaventosa fiducia di sé. Allora le sale alle gote quella fiammolina eccitata che le sta tanto bene. Porziella è grassa, Pasqualino la diverte, Terenzia la nutrisce. Ora che ha preso a camminare, talvolta si attacca alla gonna della madre, che ha sempre fretta, e guarda in su, aggrondata, come presentisse un rimbrotto o lo covasse. In sala non entra che quando sta a modello della mamma, per cherubo o amorino, e Artemisia lavora di premura, sola, cinta dal grande grembiale turchino, pallida e spettinata. Oh, penetra di nascosto, fuggendo a Terenzia assopita, attratta dagli stivaletti dorati del capitano Alonso o dai cordoni d'argento del marchese Alcide. Nessuno le bada, lei circola fra gambali e mantelli, inseguendo due o tre gatti spauriti. Oppure trova un angolo comodo e vuoto e lì si ferma e guarda la madre che non la vede. La madre agitata e frusciante di gruppo in gruppo o immobile in positura severa accanto a un cavalletto. E a volte le lucerne accese le gettano sul volto delle ombre che la sfigurano, talché si metterebbe a piangere Porziella se non fosse di già così scontrosa e segreta. Accade che l'inchino di un nuovo venuto o il rimescolio intorno a una solenne zimarra scopra la bambina e allora gli occhi di Artemisia, freddi e lucenti per impegno d'ufficio, si posano su di lei così come sono e forieri di un moto di così perentoria impazienza e minacciosa irrequietezza che Porziella abbassa i suoi, li chiude per non vederli e una volta cadde in convulsione che Don Alonso se la trovò sui piedi, tra un poco cinciampa, la sollevò tra le braccia la madre, senza un grido, e la bambina riaprì gli occhi, si ricompose. L'abbraccio di Artemisia era forte come una violenza. In momenti come questi essa ascolta quasi con sospetto una vocazione materna sfrenata, una tenerezza per la piccina che le sale alla gola con un sapor di sangue. È permesso amare una figlia a questo modo vorace e goloso come fanno le bestie e le pitocche nei loro tuguri? Le promise padre Ilario che Porziella sarebbe educata da principessa in convento, ma dai figli bisogna farsi rispettare, dice il padre, e mantenersi in contegno, specie lei che è donna sola. Sono stravaganze queste brame ossessive di solitudine in comune, di un grande abbraccio caldo che le porti avvinte sino alla tomba, lei e sua figlia. O forse ci sarà un paese dove questo desiderio è regola, fra i selvaggi o nei tempi antichi o fra mille anni. Pensieri pazzi e magari peccati per una donna che deve amare il decoro e ha da sostenere il punto d'aver aperto scuola di pittura e accademia di disegno fra tanti valentuomini di questa città. Lei non ha amiche e queste signore farebbero presto a screditarla, dichiarandola d'animo basso e da poco. A volte, da un cuore così gonfio di ambizioni, di affetti, di contraddizioni, parte un'occhiata supplice, poverella, che sulla radunata di cavalieri e pittori svolazza come una colomba. Chiede protezione, intesa, e se c'è chi la raccoglie, eccolo dire, più che a mezza voce, che sguardo languido ha oggi la signora Artemisia, e un altro risponderà da canaglia, sotto a chi tocca. Poco male del resto, Artemisia viene imparando il saper vivere e ad alzar le spalle per cancellar le insolenze degli uomini grossolani. Così non le capiti di credersi ascoltata, rispettata e magari implorata da un occhio malinconico e sofferente. Questi pericoli Artemisia non ha ancora imparato a guardarsene, e non lo direbbe chi la vede impegnata in repliche taglienti con Aniello, talentone e malalingua, e non perdere una battuta finché, quasi disgustata dalla facilità della lotta, si spoglia Gatina, ordina con un piglio smargiasso, che per le ninfe di questo Atteone la mora di Gragnano non serve. Come pecore si spostano le modelle, avvezze al maggior garbo e alle lusinghe dei signori pittori, furiose ma docili al cenno di questa capitana, così bionda, così fredda, così fragile, che trincia sulla tela abbozzi di cosce e poppe madornali. Queste femmine, aggiunge la virtuosa alzando le sdegnose pupille, per cento che ne spogli, non ne ritrovi una buona. E Porziella è scomparsa. Forse ruzza di là col cucciolo bolognese di Don Fernando, allievo di condizione, o si fa consolare da Pasqualino e Terenzia con canzoni e taralli. Certo, nell'animo di Artemisia non ne è rimasta traccia, e il tenero Massimo Stanzione se ne sgomenta. Questa donna, che non ha viscere, non conosce i dolori del parto, il sangue fatto latte. Questa è un'orsa, una fiera. Insinuazioni che non dispiacciono alla pittrice quando gliele riportano, anzi la esaltano e l'aiutano ad apparire eccezione. Una che si è lasciata alle spalle tutti gli affetti e persino il vanto delle femminili virtù per seguire la pittura solamente. Imperterrita come una giocatrice, prepara la nuova tavolozza, mostra come si impieghi il nero di seppia a ciò non sia sordo, morde sul pennello un pelo dispettoso. Che impasto, che sprezzo, che colorito! Le voci concordano, quella dello Stanzione le guida. Artemisia trionfa. Signor sì, un amante, un padre, dei fratelli, il marito, di nessuno. Finalmente una donna ha bisogno. E ora questa figlia. Ma questa figlia, è duro scavalcarla. E solo a trovarsela dietro l'uscio, ritta sui piedini molli, calzati di feltro, certe pantofoline rosse le fa battere il cuore e precipitare il sangue. Già così grande questa figlietta mia. Se nessuno è presente, neppure i servi, Artemisia si china a ginocchioni, sfiora con la fronte quei cappellucci neri. Bisogna parlarne napoletano, come Terenzia. Né, Porziella, fa un bacio a mamma tua. Rare volte che la bambina schiocca un bacio distratto, più spesso volge la testa dispettosa e accenna il broncio del pianto. La tenera fronte e la solida fronte d'avorio per un momento si specchiano, più che non s'accostino. Poi la donna si raddrizza, si spolvera la veste alle ginocchia, muove agile il passo fuori d'ogni debolezza, e dalla sua piccola statura Porziella può seguire di sottecchi il chiaro viso impassibile che già viaggia, alta meteora, lontano da lei. Presto incominciarono a incrociar le armi Porziella e sua madre.